Matteo, capitolo diciannovesimo. Ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano, e molte turbe lo seguirono, e quivi guarì i loro malati. E dei farisei s'accostarono a lui tentandolo e dicendo: «E gli è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie?» Ed egli rispondendo disse loro: «Non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne? Talché non son più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi». Essi gli dissero: «Perché dunque comandò Mosè di dare un atto di divorzio e mandarla via?» Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie». Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia». Allora gli portarono dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli presentavano. Gesù però disse: «Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli», e impose loro le mani e si partì di là. Ed ecco un tale che egli si accostò e gli disse: «Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli, e da capo vi dico: è più facile ad un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, guardateli fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro, replicandogli, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che m'avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi.